a nome della Biblioteca Provinciale Italiana Claudio Augusta, che ha organizzato questa iniziativa. Vi porto i saluti anche della direttrice, la dottoressa Valeria Trevisan, che questa sera aveva altri impegni. Ringrazio prima di tutto chiaramente Raul Melotto, non è la prima volta che è qui con noi. Proprio riguardo a questa collana, presenterà oggi il terzo volume, se non sbaglio. Era venuto qui in biblioteca a presentare il primo, dedicato a Bernini. Lo ringrazio per aver accettato anche questa sera il nostro invito. Io, prima di lasciarvi a Raul Melotto, vi ricordo solo il nostro prossimo appuntamento, che sarà lunedì 17, quindi questo lunedì 17 giugno, e avremo una serata dedicata alla fotografia, una serata con Francesca Witzmann, che molti di voi conosceranno, e ci presenterà le sue fotografie, il suo, diciamo così, punto di vista su alcuni avvenimenti che ha fotografato, diciamo, nella nostra città di Bolzano. Vi ringrazio ancora di essere venuti, lascio la parola a Raul Melotto, che ci dirà anche qualcosa in più, immagino, su questa collana. Se non sbaglio, i libri sono anche in vendita, quindi chi volesse poi acquistare i libri può chiedere direttamente a Raul Melotto. Invece noi, la collega Alessia ha portato alcuni testi dedicati a Masaccio, che sono disponibili in biblioteca e sono disponibili questa sera per il prestito. Vi ringrazio ancora di essere qui e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie. Allora, spero mi sentiate tutti bene. Perfetto. Intanto grazie di essere venuti anche questa volta. Ci conosciamo già per ragioni di lavoro, e con altri invece vedo anche facce che sono già venute qui altre ad ascoltarmi a parlare d'arte. Sì, è una collana di guide dedicate agli artisti italiani, principal luogo artisti italiani del Rinascimento e della pittura barocca. Abbiamo deciso con l'editore Odoia di Bologna di occuparci di questo settore, perché riteniamo che sia un patrimonio ancora tutto da scoprire, soprattutto nei siti dove è possibile arrivare e guardare queste opere pubblicamente. Per siti intendo collezioni d'arte, gallerie, quadrerie, chiese, pievi. L'Italia è un museo a cielo aperto, e basta solo mettersi in viaggio con una macchina, con un treno, e si può arrivare in buona parte di quello che è il percorso che noi tutte le volte proponiamo con le singole guide. Ogni guida è dedicata a un artista, quindi è un viaggio e un artista, alla scoperta di un artista. La prima guida era dedicata a Caravaggio, è uscita nel 2016, e il volume l'ho realizzato a suo tempo, proprio dopo aver viaggiato per l'Italia alla scoperta di Caravaggio. Il secondo volume lo abbiamo fatto su Bernini, e di nuovo l'ho realizzato io, perché c'è stato un incidente di percorso, doveva realizzare uno storico dell'arte di Catania, che poi si è defilato dall'impresa, e quindi l'ho completata io, insomma, l'ho portata a termine io. Terzo volume che è uscito è proprio il Masaccio, lo ha scritto una mia collega, una storica dell'arte di Genova, si chiama Daniela Pasqualini, quindi il libro non l'ho scritto io, rientra nella collana che dirigo e che ho progettato per l'editore Odoia. Daniela ha, secondo me, interpretato molto bene lo spirito della collana, quindi si è messa in viaggio alla ricerca di quello che si può vedere di Masaccio in Italia. E, ripeto, abbiamo escluso da tutti i percorsi collezioni private, collezioni inaccessibili al pubblico. Queste sono tutte opere che, quelle che vi mostrerò, di cui vi parlerò stasera, sono tutte opere che si possono vedere pagando il biglietto di un museo, pagando il biglietto di un ingresso. Addirittura a volte si entra in una chiesa, si mette un gettone, si illumina qualcosa e si può guardare. Quindi, insomma, non c'è nessun ostacolo in questo senso. Ogni guida, ognuno di questi volumi, adesso qui ho in mano Bernini e Caravaggio, tra un po' arriveranno anche le copie in vendita del Masaccio. faccio. Ogni volume è pensato in questa maniera, c'è una prima parte introduttiva sulla vita dell'artista, una parte centrale che per schede cerca di allargare il discorso al contesto culturale del tempo e una parte finale che è la guida vera e propria, una guida ragionata, come dice il sottotitolo. Ogni volume porta in copertina il nome dell'artista, Caravaggio, poi sottotitolo L'artista in Italia e poi sottotitolo Guida ragionata alle opere di Caravaggio. È una guida ragionata, quindi significa che chi l'ha scritta bene o male questo viaggio l'ha fatto e cerca quindi di aiutare con i suoi consigli e con una logistica anche chiunque sia appassionato d'arte a rifare lo stesso percorso. Masaccio è un percorso straordinario per tante ragioni, non solo per le tappe che si toccano in questo libro, ma proprio perché, come vogliamo Daniela, io e altri in questa collana, cerchiamo di rivivere la vita del singolo artista attraverso questo viaggio. Questi artisti si spostavano molto più di quel che siamo soliti credere. Nel 400 gli artisti si spostavano tantissimo. Giotto, che precede questo secolo, anzi lo precede un bel po', insomma Giotto è vissuto tra 200 e 300, Giotto ha viaggiato per mezzo mondo conosciuto di allora, l'Italia l'ha fatta bene o male tutta e poi si è spostato anche all'estero. E Masaccio, nella sua brevissima vita, Masaccio vive appena 27 anni, scarsi, sembra Jim Morrison, muore in circostanze ancora misteriose, ancora da chiarire, e ha un'origine abbastanza sconosciuta, lo vedremo, difficile ricostruire la sua formazione, i suoi primi anni. Masaccio, caspita, in 27 anni comunque riesce ad affermarsi come principale pittore a Firenze, essere chiamato molto probabilmente dal Papa stesso, Papa Martino V, a Roma e lavorare poi a Roma per morire poi purtroppo in circostanze non chiare proprio in quel di Roma, quando aveva cominciato a fermarsi anche a Roma. E sappiamo però che aveva già fatto probabilmente una sosta, ce lo dice Vasari, in quel di Roma, in compagnia niente poco di meno che di Donatello e di Brunelleschi, per andarsi a vedere tutto quello che c'era di più alla moda del tempo. E alla moda significa classico, la riscoperta del classico, quello che appunto poi porta al Rinascimento come lo conosciamo. Bene, io ho deciso di cominciare con questa immagine per fare questo viaggio con voi oggi, perché forse è l'unico autoritratto di Masaccio. Allora, Masaccio è un soprannome, lui si chiamava Tommaso di Ser Giovanni Cassai, detto prima Mazo e poi Masaccio. Questo soprannome Mazo Masaccio indica probabilmente il fatto che fosse trasandato nell'aspetto. Molto pare, molto introverso, chiuso, dedito all'arte e non, per esempio, al vestirsi alla moda, come era in voga nella Firenze del 400. Non nasce a Firenze, nasce in un paesello a circa 40 chilometri da Firenze, che sarebbe praticamente lungo la strada che ancora oggi porta verso Arezzo, cioè lungo l'Arno, la strada del Val d'Arno, insomma. All'epoca questo paese dove nasce Masaccio si chiamava Castel San Giovanni, oggi sarebbe San Giovanni in Val d'Arno. Masaccio è orfano di padre prestissimo, ha pochi anni di vita. La madre si risposa subito con un signore molto più grande di lei, di più di 70 anni, che aveva già delle figlie, e come spesso accade in queste operazioni, Masaccio si ritrova presto abbandonato, cioè lasciato insieme al fratello, un fratello più giovane, immaginiamo un ragazzino di 10-11 anni, a dover pensare già alla propria vita e a trovare il proprio sostentamento. Cosa fa Masaccio? Qui è difficile, le fonti che abbiamo sono pochissime, documenti di iscrizione alle arti, cioè le corporazioni che c'erano al tempo, iscrizioni o contratti presso una bottega, sono rarissimi. Parliamo degli inizi del 400, Masaccio nasce con buona probabilità all'inizio del 1401. Non avevamo ancora documentazione, non c'era ancora documentazione di questo tipo, però sappiamo presumibilmente che l'apprendistato di un garzone in una bottega cominciava verso i 10-11 anni per durare dai 5 ai 7 anni massimo. In questo caso possiamo immaginare che Masaccio abbia appreso qualcosina dell'orificeria, che era una base per la formazione degli artisti del 400 a Firenze, quindi è stato da orafi, non sappiamo quali, ma è stato da orafi. E lo presumiamo peraltro perché il fratello, che poi si farà soprannominare lo Scheggia, fratello di Masaccio, sappiamo invece che è stato da un orafo, è stato a bottega da un orafo, e anche lui poi diventerà insomma pittore con questo soprannome un po' particolare. Dunque Masaccio si forma molto probabilmente in una bottega abbandonata di Firenze, abbandonando il suo paese d'origine. E quello che è straordinario è che nel giro di pochi anni uscito dalla bottega, cioè diciamo da quando ha 16-17 anni ai 20 anni, si afferma già come artista, ma come artista importante. Perché dico che si afferma già come artista importante? Perché sappiamo che probabilmente intorno al 1422 realizza questa bellissima pala, un polittico, che oggi conosciamo come Polittico di San Giovenale. È stato scoperto non tanto tempo fa, 1961, uno storico dell'arte che si chiama Berti, è andato a Reggello, non distante quindi da San Giovanni Valdarno, e in una chiesetta, rovistando, ha trovato questa cosa qua. Non era ovviamente conciata in questo modo, era messa molto peggio. Dovete immaginare che era l'oro della tavola era scurita, la lacca si era praticamente tutta imbrunita. Qui stiamo parlando come tecnica di una tempera su tavola in legno con oro. La tempera è un acrilico e al tempo quel tipo di colore veniva creato con un legante che è l'uovo e con pigmenti che potevano essere di origine minerale o di origine vegetale. Ce n'erano alcuni costosissimi, come l'oro, i lapislazzuli, che erano peraltro i colori che servivano o a indorare le tavole o a indicare le vesti dei personaggi più importanti. Il lapislazzuli andava, per esempio, a indicare la veste di Pietro, la veste della Vergine, di Maria. Più era costoso il pigmento, più era pregiata la pala. In questo caso, cosa si faceva? Si lavorava la pala stuccandola per evitare che ci fossero irregolarità sulla superficie, si stendeva dell'oro, si punzonava l'oro, cioè, e questo fa capire perché dovevano essere anche degli orafi al tempo questi pittori, cioè con una tecnica che è quella di avere un piccolo stilo e lavorare sull'oro steso ancora tiepido sulla tavola, è possibile praticamente ottenere che cosa? Appuntini dei motivi di decoro, decorativi. E questa pala è stata quasi sicuramente la prima opera di Masaccio, ma per un sacco di tempo non è stata ritenuta di Masaccio. E c'è voluto questo storico dell'arte di nome Berti nel 1961 che girando per la Toscana, nei depositi delle chiese, si è messo a rovistare e ha trovato questa cosa qui. L'ha fatta restaurare, quindi è riuscito in qualche modo a restituire la brillantezza dei colori originali ed è saltato fuori questo capolavoro. Perché siamo sicuri dopo le attribuzioni di Berti che questa sia opera del Masaccio, anche se nessuno ce ne parla, nessuna fonte, non il Vasari, né le sue dite degli artisti e neanche gli storici che nel Novecento hanno cominciato a occuparsi seriamente di Masaccio, vedi Roberto Longhi. Ne siamo convinti perché tutti ci hanno detto che uno degli aspetti rivoluzionari della pittura di Masaccio è il fatto che lui aveva introdotto che cosa? La prospettiva lineare in pittura. La prospettiva lineare è un modo di vedere lo spazio nel quadro secondo quello che i latini dicevano more geometrico, cioè geometricamente, stabilendo un punto di fuga e poi delle linee, che sono linee di fuga, che convergono verso questo punto di fuga, che deve essere collocato rispetto a una linea dell'orizzonte. In questo quadro la linea dell'orizzonte è posta poco sotto il mento della Vergine e poi tutte le linee cominciano a convergere a partire dal basso della pala in quella direzione, dando profondità, lo potete vedere, alla seduta del trono dove sta la Vergine e unificando lo spazio, anche se diviso in tre pale, tre ancone si chiamano così. Dovete immaginare che fino a questa pala qui, grosso modo a Firenze le pale erano così. Un po' diverso. Questo per esempio è Gentile da Fabriano, stesso periodo. Tanto per cominciare si investiva molto di più, lo vedete, sull'apparato che era cornice, che era cuspidata, cioè faceva quell'effetto di appuntirsi a curve verso l'alto tutto lo si vede, questa sarebbe l'adorazione di immagini, sta agli Uffizi, di un capolavoro dell'arte del 400, però è uno stile da cui Masaccio prende subito, lo avrete capito immediatamente, le distanze, che è lo stile gotico internazionale. Il gotico internazionale è fatto di figure che sono tutte schiacciate nel primo piano, senza profondità, tutte, come posso dire, affastellate una sull'altra. E i colori sono stesi in maniera tale da non permettere di distinguere cosa c'è in primo piano e cosa c'è in secondo piano. I colori sono stesi invece per evidenziare la preziosità del materiale utilizzato. Le figure sono più allungate e sono sempre elegantemente vestite. Per questo si chiama anche gotico internazionale. Perché? Perché molto probabilmente questo stile deriva dalle corti del 400 del nord Europa, Fiandre. C'è un libro bello che parla di tutta questa roba, che qualcuno forse di voi conosce, che è L'autunno del Medioevo di Huizinga. Huizinga descrive molto bene che l'autunno del Medioevo è un autunno assolutamente gaudente, pieno di feste e di abiti di lusso, di gioielli, di feste di corte, di simbologia. Questo è lo stile che lo rappresenta, secondo me, al meglio in Italia in quel periodo. Masaccio lavora invece, si vede subito, facendo il confronto, a togliere, a esemplificare lo spazio. Ma non lo fa solo perché toglie le figure, ne mette meno, è perché concepisce lo spazio secondo una prospettiva lineare. Concepire lo spazio secondo prospettiva lineare significa renderlo unitario e fare in modo che sia uno spazio più realistico, dotato di profondità, si dice anche profondità prospettica, dove le cose, le persone sono collocate secondo piani di profondità. In questo modo tu razionalizzi. Ci sono delle cose però ancora di Masaccio che potremmo chiamare ingenuità e che appartengono a uno stile non ancora maturo, non ancora definito. Guardate il piedino del bambino. Il piedino è straordinario, però se si guarda bene da vicino il contorno, lo vedete, diventa verdastro intorno ai piedi. Perché? Perché mi alzo, perché sennò dietro mi sento inchiodato. Perché le tavole venivano prima preparate. Di solito, ci insegna Cennino Cennini, che ha scritto un trattato dell'arte nel 400, bisogna stendere un pigmento che si chiama imprimitura e su cui poi noi, andando a stendere il colore, che si asciuga abbastanza in fretta nel caso dell'acrilico, della tempera, stabiliremo le figure. Si disegna, certo, però attenzione che dopo che ho fatto il disegno, andando a mettere l'imprimitura, resta veramente solo una sorta di palinsesto del disegno originario che ho messo sulla tavola. Quello che salterà fuori quando io vado a campitare, cioè a riempire le zone che ho disegnato, in questo caso i polpacci del bambino, rendo l'incarnato con il rosa, certo, però resterà questa sfumatura verdastra sullo sfondo. Perché? Perché la tavola è stata trattata in verdastro. Nel gotico internazionale cosa facevano? Dopo aver trattato la pala, averci disegnato sopra e riempito a campitura la figura, con un pennellino nero tracciavano il contorno. Si dice anche stile lineare per il gotico, proprio perché le figure sono ben disegnate, riconoscete sempre il contorno nero. Nel caso di Masaccio siamo in una via di mezzo. L'incarnato non è ancora quella cosa che poi, insomma, esploderà con Masaccio stesso qualche anno dopo e con altri artisti, nel pieno del Rinascimento fiorentino. È una via di mezzo. L'altra cosa che io adoro di questa pala è questo dettaglio qua. C'è il bambino che si mette proprio due dita in bocca e sembra ciucciarle, perché sta mangiando qualcosa di buono. Cos'è che sta mangiando? Dell'uva. C'è un grappolo d'uva che si è schiarito, si vede pochissimo, dovete immaginare che era un rosso carminio, un rosso della passione. Spesso i bambini in braccio alle vergini hanno grappoli d'uva, ciliegie, melograni, sono tutti simboli della passione di Cristo. Annunciano, anche se lui è bambino, che vivrà più in là la passione. Perché si è sbiadito? Per il trattamento dell'acqua, il colore viene dato. si asciuga in fretta, per fissarlo si mette su una lacca. La lacca di allora non teneva molto. Quasi sempre questa lacca cosa faceva? Con l'umidità cominciava a sciogliersi e si portava via il colore. E questo è successo al grappolo d'uva. Però il bambino che si mette in questo modo, così, così avido, in bocca le due ditine, a me piace molto. L'altra cosa che mi piace è pensare anche a come lui, sapendo che questa chiesetta a Regello doveva essere dedicata probabilmente ai santi locali, ha fatto in modo di mettere i santi con gli attributi, e poi un particolare, che magari vi è sfuggito, è piccino, meglio sempre andare a vedere dal vivo queste cose. Qua, lo vedete questa massa scura, poco più a destra, adesso con la freccetta ve la indico meglio. Questo è un maialino senese, è un porcello. Perché? Cosa ci fa un porcello in una pala d'altare? Allora, ci sono quattro santi, d'accordo? Questo con la barba scura e i tratti scuri è Armeno, è San Biagio. È San Biagio Armeno ed è un santo venerato come tra i primi vescovi della cristianità. Ha un libro in mano ed è chiuso. A fianco c'è Giovenale. Giovenale invece è il santo per definizione legato anche alla Chiesa e al politico che è stato realizzato. Che cosa ha questo bastone, che si arriccia? Sarebbe il bastone pastorale, lo usano i vescovi per le adunate e per incitare e esortare i fedeli. Dall'altra parte ce ne sono altri due. Quello che mi interessa è Sant'Antonio Abate, che è quello con la barba lunga e il bastone che non è più un bastone pastorale ma un bastone tau, dalla lettera greca tau, cioè, lo vedete, praticamente finisce con la parte corta della croce orizzontale e ha proprio i piedi di Sant'Antonio Abate c'è questo porcello. Perché? Perché Sant'Antonio Abate, lo sapete, è quello che in teoria cura il fuoco di Sant'Antonio. Dalla cotenna di questi porcellini si ricavava un grasso che poi diventava un unguento e che serviva a curare il fuoco di Sant'Antonio. E quindi viene messo là sotto il porcellino a ricordare la proprietà taumaturgica del santo. Ora è chiaro che quando uno realizza una tavola di questo tipo dialoga con il territorio, cioè sa che cosa vogliono i fedeli e sa cosa credono i fedeli. Molte di queste credenze sono legate peraltro appunto a usanze come quella del fuoco di Sant'Antonio al momento. Mettere insieme questo significa in qualche modo dialogare con il territorio per ottenere una comunicazione efficace nei confronti dei fedeli, estremamente efficace. Questo lavoro qui è un lavoro insieme, pastorale e evangelico. Io curo la comunità di fedeli e cerco di fargli capire con messaggi immediati e con una simbologia riconoscibile per il tempo l'importanza dei santi sul territorio. Masaccio, con questo bagaglio, con questa esperienza, arriva poco più che ventenne a Firenze, non sappiamo esattamente se chiamato, dopo che ha ottenuto, diciamo, successo con questa pala, o se lo chiama Donatello, Brunelleschi, perché erano amici. Non sappiamo in che misura, non sappiamo come si frequentassero. Probabilmente arriva a Firenze e arriva già abbastanza famoso a Firenze. E a Firenze la prima roba che fa è il capolavoro assoluto dell'arte del primo 400, la Cappella Brancacci. La Cappella Brancacci sta alla Chiesa del Carmine a Firenze. Si chiama così perché è stata fortemente voluta da un ordine che sono i credenti della Madonna del Carmelo, cioè i Carmelitani. I Carmelitani sono legati alla Madonna del Carmelo. Si chiama Cappella Brancacci, dunque, tanto per capirci, voi arrivate alla Chiesa del Carmine, dovete entrare nel chiostro, andare verso la sala capitolare, lì c'è la biglietteria, pagate 15 euro entrate. Uno dirà 15 euro per vedere una cappella, li vale tutti, è costoso, però li vale tutti. Si entra lì e quando si vede a colpo d'occhio la cappella cosiddetta Brancacci, è per quel che mi riguarda sempre una sorta di, come posso dire, pugno nell'occhio, ma non perché ci sia qualcosa che stona, ma perché ci sono dei colori incredibili a distanza di parecchi secoli. Perché ci sono dei colori incredibili? Ma perché i restauri sono stati fatti bene una volta tanto, e perché in realtà avevano Masaccio, il suo amico, poi vi dirò chi, e chi interverrà dopo Masaccio per terminare i lavori, visto che Masaccio muore presto, avevano lavorato con dei pigmenti che hanno ottenuto straordinariamente. Si ritiene che la Cappella Brancacci, che conta circa 9 riquadri, sia stato realizzato in un centinaio di giorni di lavoro. Come si lavorava sulle pareti? Si lavorava con la tecnica che chiamiamo ancora oggi pittura a fresco. Che cos'è la pittura a fresco? Pittura a fresco significa che prendo una parete, la tratto con un intonaco fresco e ho una giornata di tempo per stendere il colore, perché poi l'intonaco asciuga. Quindi si lavora a giornate. Bisogna essere bravissimi a lavorare con questa tecnica. Immaginate che i capolavori assoluti degli affreschi del Rinascimento italiano, da Giotto a Michelangelo, si sono fatti in questo modo. Si lavora, immaginate cappelle alte anche 5-6 metri. Che cosa bisogna fare se si comincia a dipingere? Tanto per cominciare si va dall'alto, si parte dall'alto, si comincia sempre dall'alto. I primi intonaci vengono stesi nelle parti in alto, sotto la cupola e sotto le lunette. Si dà l'intonaco in base a un punteggio. Io devo alzarmi di 3 metri per essere all'altezza 5 metri e poter dipingere. Il punteggio deve essere largo quanto il riquadro in cui io andrò a dipingere in quella giornata, perché poi il colore asciuga. E infatti nei documenti del tempo, le allogagioni, cioè le commissioni che noi possiamo ancora oggi leggere, e che erano i contratti che firmavano gli artisti con i committenti delle opere, i ordini religiosi, i nobili che chiedevano le cappelle funerarie, eccetera, ti dicono che ci sono delle pontate. Maria ci ho messo un po' a capire cosa fossero le pontate quando studiavo questi documenti. Le pontate sono le giornate sul ponteggio. Quindi sappiamo che ci sono molti 100 puntate, come un serial, per fare gli affreschi della Cappella Brancacci. Ci sono molti 3 artisti per farle tutte, che sono Masaccio, Masolino da Pancale, detto Masolino, che era il grande amico e peraltro rivale di Masaccio in quel tempo, e più tardi, visto che i due muoiono abbastanza presto e la cappella resta incompiuta, più tardi Filippino Lippi, il principale allievo di Botticelli, ma interviene 70 anni dopo. E deve omogeneizzare peraltro gli stili di tutti e due i precedenti pittori. Ora, sì, diciamo le puntate. Si lavora trattando l'intonaco, non si disegna direttamente sull'intonaco, si realizzano dei cartoni in studio, disegnando direttamente con carboncino o con matita sul cartone. Il cartone a quel punto, con un punzello, viene tutto bucherellato lungo i contorni del disegno. Io porto il cartone lungo la parete che ho appena trattato e ci butto su della mina sminuzzata. Tolgo il cartone e avrò i contorni del disegno già pronti. A quel punto devo campitare, cioè devo riempire con i colori. Bisogna avere sempre i colori pronti perché asciugano in fretta, e quindi ci vogliono garzoni che te li preparino di sul momento. E quindi su questi ponteggi dobbiamo immaginare che lavorasse parecchia gente. Come è strutturata la Cappella Brancacci? Tanto per cominciare, Brancacci è il nome, Felice Brancacci è il committente. Era un ambasciatore fiorentino pieno di soldi, potentissimo. Immaginate che viaggiava da Pisa a Alessandria d'Egitto come ambasciatore. E prima piaceva ai medici, dopo, quando c'è stata insomma la congiura dei pazzi, piaceva meno, perché pare che appoggiasse proprio i pazzi, sicché è stato anche esiliato. E anche la Cappella Brancacci ha avuto un'interruzione brusca di lavori, proprio perché, essendo dedicata a lui, essendo una cappella funeraria per lui dentro una chiesa di carmelitani, un ordine di cui lui comunque faceva parte, i carmelitani dissero subito: non lo conosciamo. Fecero l'ignoro, noi non lo conosciamo, fecero finta di non avere contatti con la famiglia Brancacci, e il lavoro rimase sospeso finché insomma si restituì la Repubblica, e a quel punto con la Repubblica ripresero i lavori. Vi voglio mostrare la struttura della cappella. Ah, vedete? Questa è la struttura della prospettiva lineare della pala giovenale, per capirci. Linea dell'orizzonte sotto il mento e tutte le linee prospettiche che convergono in quella direzione. Quando si stabilisce questo, si stabilisce anche il protagonista della pala, in questo caso la Vergine. Vedrete che Masaccio fa la stessa cosa nella cappella Brancacci. Ecco qua, questa è la struttura della cappella. Come vi dicevo, si comincia sempre a lavorare, si chiamano registri, registro basso e registro alto. Alcune cappelle possono avere addirittura tre registri. Masaccio comincia a lavorare insieme a Masolino nei riquadri che io ho indicato come 1 e 2. Si comincia da lì. Ed è geniale la cosa che fanno i due, perché devono praticamente introdurre il credente al tema evangelico. Il tema evangelico è la vita di Pietro, così come la conosciamo attraverso i Vangeli, quelli sinottici, e anche attraverso un testo che è mezzo apocrifo, che è la Leggenda Aurea di Jacopo da Varazze, o da Varagine, che è un testo che ha avuto una diffusione pazzesca e racconta un sacco di episodi agiografici sulle vite dei santi, primi principali santi, e sono prevalentemente apocrife, cioè non riconosciute all'interno dei Vangeli ufficiali, però hanno dato la stura a tutto l'immaginario iconografico medievale, compreso in questa cappella. Beh, dicevo, uno e due, bisogna introdurre il credente alla vita di Pietro. E come lo fai? Rappresentando Adamo ed Eva. Si comincia sempre da Adamo ed Eva. Perché, direte voi, semplice. Se caccio Adamo ed Eva, so che comincia l'era per cui noi dobbiamo in qualche modo pregare e abbiamo bisogno di Dio. Prima non c'era bisogno di Dio. E quindi abbiamo bisogno della Chiesa. E Pietro è il primo vicario sulla terra di Dio. Quindi è il primo fondatore della Chiesa romano-cattolica. Quindi si comincia da Adamo ed Eva. E ti devo mostrare prima come stavano. E lì ci pensa Masolino, che è più fighetto, passatemi il termine. Cioè lui rappresenta le figure in maniera molto elegante, gotico internazionale, nude, ma sembrano delle statue classiche, sembrano sul punto di mettersi a danzare. Masaccio invece le rappresenterà dopo la cacciata, e lì c'è il salto proprio, quando parlavo di un pugno nell'occhio, è proprio questo. È questa disomogeneità di stili che si possono vedere all'interno della cappella, già solo guardando le prime immagini. Un raffronto di Adamo ed Eva fatto da Masolino da Pancale e da Masaccio è questo qua. Voilà. Adamo ed Eva per Masolino, Adamo ed Eva per Masaccio. Salta agli occhi. Qual è la differenza? La differenza è che qui parte un rinascimento altro, che poi il rinascimento che forse più riconosciamo e che porta direttamente a Michelangelo e a chi vi pare. Qui avete ancora che cosa? Un Adamo ed Eva nudi, in pose statuarie classiche. Adamo è quasi in un contrapposto, il contrapposto insomma è un modo con cui faccio stare le gambe della statua perché si bilancino bene, perché ci sia una mezza torsione e quindi anche una tensione sul corpo per non far sembrare le figure, come dire, dei geoglifici. Eva, guardate il gesto, anche la gestualità. Guardate anche il fondo, che è scuro e ricco di motivi vegetali che piacevano tanto allo stile gotico internazionale. Anche il serpente ha una testolina carina, ricciuta, sembra un paggetto di corte. Ecco invece come ci mostra Masaccio la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso. Il nudo è di nuovo integrale, ma lo si vede subito, lavora molto di più di chiaroscuro. Guardate la schiena di Adamo, come è scurita, come se ci fosse già un gioco di chiaroscuro. E non solo, le figure sono raffigurate in atto di sofferenza, di pentimento, di disperazione, con volti stravolti dal dolore. C'è molta più espressività molta meno posa, molta più espressività. Lo spazio, lo vedete, si esemplifica di nuovo e diventa roccioso, disadorno, beh, perché dopo la cacciata dal paradiso dovranno ottenere i frutti della terra fatica, dovranno partorire con dolore, insomma tutto quello che poi sappiamo dal testo del Genesi. Anche l'incarnato è completamente diverso. Per incarnato intendo la tecnica con cui il pittore ottiene il colore della carne, del nudo. Vedete come è nel caso di Masolino più chiaro, quasi fluorescente, e come si fa più adusto, ho scritto nell'introduzione, cioè qualcosa di scurito attraverso di nuovo l'uso della luce e dell'ombra nelle carni di Masaccio. Viste le due figure di introduzione, la struttura poi prevede praticamente con i pannelli 3 e 4 il tributo di Pietro e il battesimo dei neofiti. Sono tutti episodi che si possono trovare nei Vangeli. Vi mostro solo, per quel che mi riguarda, un paio di immagini di quelle che amo e che ho poi citato nell'introduzione che ho scritto. Ah, questa è una cosa interessante, i nudi si coprivano in piena controriforma, quindi un bel po' dopo Masaccio, con queste foglie straordinarie, che dovevano essere di fico ma sembrano più d'acanto, insomma gli hanno coperto l'nudità. Il restauro per fortuna ha tolto tutto questo e ci mostra questi nudi straordinari così come erano stati concepiti in origine. Eccolo qua. Ci tengo a mostrarvi questo perché la tecnica della prospettiva lineare, come l'avete vista nella palla di Giovenale, viene portata su un riquadro in CinemaScope, sempre un 16:9, è sulla sinistra, e sarebbe l'immagine successiva dopo la binata di Adamo ed Eva fatta da Masaccio e Masolino. Qui ci viene mostrato Pietro che, chiamato da Gesù, arrivato a Cafarna, deve pagare un tributo a un pubblicano. Il pubblicano è di spalle ed è vestito in maniera elegante, lo vedete subito, alla 400 fiorentino. Tutti gli altri sono investiti del tempo, tranne un'altra figura, lo si vede sulla destra, che sarebbe sempre lo stesso pubblicano. E poi c'è un'altra figura sulla sinistra, in profondità, che sta facendo qualcosa nell'acqua. Ci sono tre momenti distinti in un unico spazio. Questo è il modo di articolare la storia dei Vangeli grazie alla prospettiva lineare di Masaccio, e da Masaccio in poi diventa regola. Se voi andate ancora oggi a vedere roba del Cinquecento manierista, seconda metà del Cinquecento, palazzi, pitti, Galleria Palatina, roba del Pontormo, concepivano a distanza di secoli ancora lo spazio in questo modo. Cosa si fa? Allora, si immagina uno spazio unitario secondo la prospettiva lineare. La prospettiva lineare in questo caso prevede che la linea, di nuovo, il punto di fuga sia la testa di Gesù, al centro del quadro quasi, e poi tutte le linee convergono in quella direzione, cioè tutte le linee di fuga. Chi è il protagonista? Cristo. Arriva a Cafarno, gli viene chiesto un tributo e lui non ha soldi. Dice a Pietro di andare verso il mare, pescare un pesce e troverà una moneta d'oro dentro la pancia del pesce. Momento successivo, sinistra, vedete Pietro che fa esattamente questo. Sta tirando fuori la moneta d'oro dalla pancia del pesce. A quel punto potrà pagare il pubblicano. Terzo e ultimo momento, sulla destra. La prospettiva lineare è servita a unificare lo spazio e a raccontare questi tre momenti distinti in un'unica immagine. Ci sono cose straordinarie in questo quadro, lo chiamo quadro, insomma, affresco. Il paesaggio, che è in perfetta profondità prospettica. Potete vedere anche l'architettura del palazzo sulla destra, con quella sorta di colonnato. E poi c'è Pietro, che è raffigurato, come vi dicevo, con i colori che sono i più pregiati, insieme a quelli che porta anche Cristo. Il mantello, la sottoveste di Pietro è azzurro, lapislazzuli, poi ha un mantello che è arancio dorato. I capelli e la barba sono bianchi in fondo. In questi 9 riquadri ci vengono raccontati tutti gli episodi più importanti dal punto di vista dei miracoli e della geografia del santo in questione, Pietro. È risultato efficace questa sequenza di immagini sul, come posso dire, immaginario del pubblico del tempo? Sì, assolutamente. Non avevo ancora finito di realizzarlo che già per tutta Firenze si diceva che c'era una sorta di nuovo Donatello per la pittura, o di un nuovo Filippo Brunelleschi per la pittura, perché vedevano le cose che stavano facendo a quel tempo sulle statue o con la prospettiva scultori, architetti, trasposte invece in pittura. E questa è la grande rivoluzione di Masaccio. La cosa per cui poi io lo amo in particolar modo, infatti nell'introduzione ho parlato dell'ombra, io amo le ombre in pittura, e forse per quel che mi risulta tra le prime e primissime ombre proiettate nella storia dell'arte italiana, se escludiamo quindi i Paesi Bassi eccetera, vedete che le figure non solo occupano uno spazio che è unitario, che è prospettico, che è razionale, è giustificato e via dicendo, ma tutte le figure proiettano un'ombra, un'ombra che è giustificata. Quindi significa che sono calate in uno spazio reale, e significa peraltro calare un episodio sacro fuori dal tempo in uno spazio reale. C'è ancora un elemento in più che sfugge se non si conosce il tempo. Cosa sta facendo adesso Pietro? Sta pagando il tributo. Siamo nel 1424, sta per nascere il catasto a Firenze. È una rivoluzione, è il primo catasto nella storia del mondo. Che cos'è il catasto? Il catasto è un ufficio pubblico in cui registri beni immobiliari e redditi. Se non ti registri, paghi. Paghi una multa. Nel momento stesso in cui ti registri, paghi l'obolo, paghi la tassa. C'è chi ha voluto vedere, come a suo tempo Roberto Longhi, anche un richiamo, soprattutto nella figura del pubblicano che è vestito come un fiorentino del 400, un richiamo preciso all'idea del catasto fiorentino. Questo significa in qualche modo calare la storia sacra nel presente, e quel presente però deve essere anche realistico, e quindi che cosa faccio? Uso la prospettiva. Che cosa faccio? Uso le ombre in maniera giustificata. Che cosa faccio? I panneggi, anche i panneggi. Voi dovete immaginare che i panneggi nel gotico internazionale erano degli svolazzi infiniti. Sembravano sempre volare con le punte dei piedi sospese sopra il suolo. Invece qui sono tutti ben saldi poggiati a terra, come solo in Giotto. Infatti la filiazione che fece a suo tempo Longhi, giustissima e valida ancora oggi, è proprio Giotto, Masaccio e Michelangelo. Le figure più solide, più piantate per terra sono queste della storia dell'arte. Io mi fermo qua perché potrei stare delle ore, ma preferisco piuttosto che siate voi. Non so quanto tempo ho parlato, ma spero di essere stato nei tempi. Sì, sono stato nei tempi. Perfetto, è il mio tempo, 40 minuti. Non voglio chiedere troppo a voi. Piuttosto, se avete domande, se vi interessa vedere qualcos'altro, io mi sono fermato a Masaccio nel 24, poi sappiamo che nel 25 Masolino lo abbandona e va a lavorare per Pippo Spano in Ungheria. Nel 26 è lo stesso Masaccio che lascia il cantiere, probabilmente perché non lo pagano, e va a Roma. E lì comincia a lavorare. Tutto quello che fa Roma è quasi perduto, smembrato. Smembrato significa che tutte le pale che realizza sono purtroppo state separate dopo atti di ladrocinio, c'è gente che è riuscita a prenderle, smembrarle, e infatti ne abbiamo un pezzo alla National Gallery di Londra, un pezzo alla Washington Gallery in America, e ciao. E ancora oggi è impossibile, possiamo solo immaginare come fossero. Quella è la produzione romana. E poi muore misteriosamente nel 1427, non si capisce ancora come. Vasari dice avvelenato, ma Vasari ogni tanto romanza, d'accordo? Quindi bisogna insomma, col beneficio di inventario, vagliare la fonte di Vasari. Questa è la vita di Masaccio. E quello che io amo di Masaccio è che parlano le sue opere, che sono ancora oggi bellissime da vedere, da approfondire, da studiare. Il merito del libro di Daniela è che nella sezione dedicata alle schede di cultura lei vi spiega per esempio la storia del catasto, vi spiega il libro dell'arte di Cennino Cennini e i ricettari che sono nati dopo il libro dell'arte e che sono stati usati durante tutto il 400 e 500 dei pittori che usavano la tecnica della tempera. Cioè approfondisce, secondo me, come si deve, alcuni aspetti della cultura pittorica del tempo, per non parlare poi appunto di cose come i viaggi, le corporazioni, le cosiddette arti fiorentine, cose che poi sono utili se si vuole capire un quadro. piuttosto fatemi voi qualche domanda. L'autoritratto. Sì, quell'autoritratto, giusto. Giusto, l'autoritratto. L'autoritratto viene dalla Cappella Brancacci. Viene dalla Cappella Brancacci. Adesso ve lo mostro. Poi arrivo anche per altre domande. Solo un momento. I volti, cioè guardate anche qui per esempio. L'altra cosa che ha Masaccio e che lo distingue da tutto, da tutti gli artisti del tempo, eccolo qua. Siamo praticamente nell'ultima, praticamente il riquadro 9, è l'ultimo degli episodi raccontati da Masolino e Masaccio, è la risurrezione del figlio di Teofilo e San Pietro in cattedra. È anche la più lunga in linea orizzontale. Anche qui ci sono tre momenti distinti. Siamo in una corte interna, in un cortile che Masaccio immagina un po' orientalizzante. C'è Teofilo, che è una sorta di governatore delle province romane, che è rappresentato in cattedra a sinistra, una cattedra profana, seduto di profilo con questo capo strano, il pizzetto. Poi, al centro, c'è Pietro, ormai invecchiato, anziano, che sta facendo risorgere il figlio di Teofilo. Perché la leggenda vuole, questa è invece Jacopo da Varazze, leggenda aurea, non sono i Vangeli, non è Matteo, non è Luca, ma ce lo racconta Jacopo da Varazze. Leggenda vuole che qui Pietro sia stato sfidato da Teofilo, altrimenti lo metteva in croce, poi in croce ci finirà comunque, ma in altra maniera e con un altro, satrapo. Praticamente sfida Pietro dicendogli: io ho un figlio che è morto da 14 anni, se me lo fa risorgere, credo che tu sia santo e mi converto. E allora vanno sulla tomba del figlio morto da 14 anni e lo ritirano su, fresco come una rosa, mezzo nudo e in mezzo proprio al quadro. E a questo punto, è il secondo episodio centrale, a questo punto si passa al terzo, dove Pietro è in cattedra, una cattedra sacra, e sta praticamente predicando e convertendo delle persone. Nella predica in cattedra di Pietro c'è il famoso autoritratto, l'unico che presumiamo essere autoritratto di Masaccio. Sono esattamente queste tre figure sulla destra. Allora, vedete che ce ne sono, lasciamo perdere le tre figure sulla destra per l'autoritratto, solo un istante in questo aspetto che trovo interessante. E questa figura sono tonsate, sono carmelitane. C'è invece una di spalle che non è tonsata. Molto probabilmente un committente, uno forse della famiglia Brancacci. A destra, invece, abbiamo tre ritratti. Uno, ce l'avevo come prima immagine qui, possiamo invece adesso vederlo in questo modo. Voilà. Allora, c'è quello più basso, che qui nell'ingrandimento si vede poco, che è Masolino, si chiamava così perché era piccino, non arrivava al metro e mezzo, ci dice Vasari, era proprio piccino. E ci viene mostrato in terzo piano. In secondo piano, guardando verso di noi, scuro il volto, Masaccio. Questo è con buona probabilità il volto di Masaccio. Di profilo, il suo grande amico Brunelleschi. Abbiamo anche pochissimi ritratti di Brunelleschi, questo è uno dei pochi. E beh, qui è un omaggio anche simbolico, e c'è una strategia. Io mi metto in mezzo tra Masolino e Brunelleschi, cioè sono io che faccio portare lo stile di Masolino verso Brunelleschi. Un po' questo potrebbe essere il significato. Questo per quanto riguarda il tanto ritratto. Altre domande? Okay. Prego, faccio prima il signore. Volevo dire, come viene stabilito il punto di fuga? Allora, il punto di fuga si stabilisce nel momento stesso in cui io traccio la linea dell'orizzonte, e la linea dell'orizzonte può essere bassa o alta. Se io la alzo, so che darò l'impressione a chi guarda il dipinto o l'affresco di stare sotto. Se la abbasso, invece gli darò la sensazione di stare, insomma, come un uccello, di trovarsi sopra. Una volta che ho stabilito la linea dell'orizzonte, devo trovare un punto su questa linea. Quel punto diventa il punto focale, cioè ti faccio convergere tutti. Lì ci devo mettere il personaggio principale. Questa è la tecnica. Capito, ma l'altezza, perché il mento della, e non la testa della Madonna? Allora, sulla pala lì è presto detto, se come in una visione d'insieme, come abbiamo visto nel affresco del tributo, io ho bisogno di avere dietro che cosa? Paesaggio e quindi anche altra profondità prospettica, il punto di fuga sarà leggermente sopra la testa della figura centrale, in questo caso poco sopra la testa di Cristo. Se sono in una pala e la pala non ha tutto quel paesaggio dietro, allora vado più sotto, semplicemente questo. Prego. Bravo, ci fai vedere il quadro di Santa Maria Novella? Come no, parte. Come no. Quello è invece una delle ultime cose che fa, proprio a Firenze, forse poco prima di andare a Roma e poi scomparire nel mistero. Come no? Scusi, posso solo dire una cosa sull'ultimo quadro? Questo? Certo. Le ossa che ci sono, sì, vicino al figlio di Sole, sì, è solo per richiamare il fatto della risurrezione? È solo per richiamare il fatto che lui... No, non avrebbe senso, solo per chiamare il fatto che viene da una tomba, e risorge da una tomba, solo questo. Proprio un effetto simbolico, certo, perché chiaramente, diciamo, tombe immagino fossero in quel tempo, in quelle lontane province esotiche, come le immagina Jacopo da Varazze, ben diverse da quelle che potevano essere a Firenze, e comunque non potevano essere allogate in uno spazio come quello. Quindi si immagina semplicemente un centro della scena con lui nudo che si alza in mezzo a teschi e ossa, semplicemente. Non è chiaramente una fossa comune, è il figlio di Teofilo, quindi avrà avuto chiaramente una tomba tutta per sé. Arrivo, sì. L'altro pezzo da 90 di Masaccio è sicuramente questo. Arrivo, tac. Eccolo qua. Allora, questa è forse una delle opere chiave per capire anche poi cosa succederà all'arte del Rinascimento da Masaccio in poi. Perché a questo dipinto si ispireranno praticamente tutti, ma veramente tutti, e non c'è nessuno che sia venuto dopo Masaccio che non lo abbia ammirato. Leonardo ammirava questo dipinto, Raffaello ammirava questo dipinto, Michelangelo, per fare solo dei nomi. Un grande, meno conosciuto, che si chiama Merozza da Forlì, ha citato letteralmente questo dipinto. Piero della Francesca viene prima di tutti i grandi, ed è diciamo la crocifissione forse più suggestiva del primo 400 italiano. Praticamente è, come dicevo, forse l'ultimo lavoro a Firenze, ed è la Trinità, cosiddetta Trinità di Santa Maria Novella. Perché è così importante? E lo si vede subito, cioè se io vi mostro come si facevano vedere le Trinità prima di Masaccio, vediamo se, eccolo qua, qui ci sono più dettagli, vedete, da Cimabue a Giotto ai vari maestri di crocifissi, si facevano dei crocifissi lignei e poi praticamente nei bracci della croce si rappresentavano le figure per la Trinità, quindi Padre, Figlio, Spirito Santo. Il Figlio chiaramente è crocifisso e poi si mettevano le figure a lato. Da Cimabue a Giotto, ripeto, è questa la codificazione. Poi si arriva a Masaccio, che invece lo mette dentro una struttura architettonica perfettamente ricostruita. Qui Vasari sostiene che lui sia stato proprio, che è impossibile che abbia realizzato questa cosa senza essere stato a Roma a vedere certi monumenti e a ricostruire che cosa? Quello stile architettonico che doveva essere la monumentalità romana. E Cristo si trova dentro uno spazio che non è più solo prospettico, giustificato secondo una via dell'orizzonte, dei punti in fuga, no, è uno spazio idealizzato in chiave classica, cioè un Cristo che si sta facendo classico, classicheggiante. Anche il corpo di Cristo, c'è uno studio anatomico incredibile. Ora, gli studi di anatomia cominciano probabilmente con Michelangelo e Leonardo a Firenze, però abbiamo il sospetto che Masaccio e anche il maestro di Leonardo sono stati di recente a una mostra sul Verrocchio a Firenze, molto bella, eppure il Verrocchio fa venire sospetto da alcune cose che faceva, che praticasse l'anatomia. Ora, era vietata, assolutamente vietata l'anatomia, non si potevano sezionare dei cadaveri, era un sacrilegio, quindi lo facevano di nascosto, probabilmente con l'aiuto di qualche frate, di qualche prete che li faceva andare dove non potevano e dissezionavano i cadaveri. E l'anatomia del Cristo è suggestiva, è un corpo già immaginato in chiave realistica, moderna, come un corpo di Bacon, ok? E non solo, anche l'idea di porre vergine, committenti, santi ai piedi praticamente porta verso quel genere che si chiama sacra conversazione. Poi basterà sostituire la Madonna al Cristo e avrai la cosiddetta sacra conversazione, che sarà il tema principale di tutto il manierismo fiorentino. Conversare su che cosa? Su temi teologici. Questi cominciano ad essere quadri, come ci insegna Federico Zeri, che sono tostissimi da capire per tutti i significati che hanno. Zeri dice in una sua intervista: non si capirà mai per intero un quadro di Masaccio, soprattutto dell'ultimo Masaccio, ci sarà sempre qualche significato recondito che tu non raggiungerai, e forse è anche giusto così. A me piace pensare che ci sia sempre qualcosa di opaco nell'arte, che non si possa spiegare tutto tramite iconologie e simbologie. È bello, affascinante, come quel porcello della pala giovenale, ma ricordiamoci che c'è sempre qualcosa che sfugge alla nostra capacità di interpretazione. Guardate anche solo di nuovo l'uso delle ombre dietro, poco dietro il corpo di Cristo. È tutto giustificato in una chiave iperrealistica e allo stesso tempo iperideale per quanto riguarda la collocazione dentro questa cornice classica. Qui non è più un Cristo calato nella realtà, come poteva essere quello del tributo della Cappella Brancacci, ma è un Cristo sulla croce, iperrealistico, calato nell'idealità. Cosa diversa. Comincia a essere già un linguaggio metafisico, quello di Piero, quello di Raffaello, per rispondere. Parlavi prima della capacità di rappresentare e gestire lo spazio reale. Sì, sì. Ma al contrario di questo quadro qua, dove visto sta nello spazio immaginario, sì. Nei quadri che abbiamo visto prima c'è ancora, se guardiamo l'architettura, questa mancanza di proporzionalità, queste figure incastrate sotto i portici. Sì, sì. All'edificio. Sì. E come si spiega questa? Si spiega, vi faccio vedere, grazie per la domanda, vi faccio vedere uno dei, sempre della Cappella Brancacci, che mi piace da morire. Eccolo qua. Per esempio, giusto osservazione, solo guarda questo. Ci sono ancora delle ingenuità, d'accordo? Qui abbiamo praticamente, è un altro di quelli famosi, focus della Cappella Brancacci, Pietro in due momenti distinti, qui sono due, non tre. Qui praticamente sta facendo un'offerta a uno storpio e qui resuscita Tabita. Vedete, c'è qualcosa di strano. Per esempio, rispetto al Masaccio che abbiamo visto sinora, c'è qualcosa di strano. Se ne sono accorti tutti nel corso dei secoli. Allora, le ombre ci sono e sono ancora abbastanza giustificate. La cosa che salta agli occhi, già Vasari se n'era accorto, è che diavolo ci fanno questi due nobili qui in mezzo, per esempio. Sono vestiti in una maniera incredibile, sembrano due marziani calati in una piazza. Che ci fanno lì? Lì si spiega il fatto che la Cappella Brancacci non è solo mano di Masaccio, c'è anche Masolino. Masolino c'è. Infatti è una sintesi la Cappella Brancacci, si vede già dove porterà Masaccio, verso cose come la Trinità di Santa Maria Novella, arte quasi metafisica, E poi si vedono ancora retaggi dello stile gotico internazionale, di uno stile raffinato, figure eleganti come i due in mezzo, e anche il porticato sulla destra è stranissimo. Mentre se si va a vedere Longhi, ci andò giù di testa quando analizzò questo affresco, se si guarda sulla profondità, gli ultimi piani, ci sono panni stesi dalle finestre. È una piazza reale da quel punto di vista. Quello è il tocco di Masaccio. Lo disse Vasari, lo confermano Longhi, Berti e tanti altri, D'Angelo, Cecchi, tanti che si sono occupati di questo, di questo ciclo di affreschi. Io sono convinto che effettivamente qui ci sia una piazza italiana quattrocentesca con persone che stendono i panni, come si vedranno anche nel San Sebastiano di Antonello da Messina, e allo stesso tempo ci sia già un perfetto uso della prospettiva in chiave architettonica, con delle ingenuità di tipo gotico internazionale, come le figure che sembrano, guardate il passo anche, come sono posizionati i piedi delle due figure, sembra che cedano a passo di danza, sì, statiche in posa. Si spiega così, quindi, si spiega col fatto che c'era anche un'altra mano, e si spiega col fatto che 70 anni dopo arriva Filippino Lippi e deve anche un po' sistemare, è completa, cambiando qualcosina, ancora non è facile capire cosa, ma qualcosina sicuramente c'è. È vero. Si ridimensiona molto. Si ridimensiona molto, tanto che ancora oggi si fa fatica a vedere la mano di Filippino Lippi. C'è, sappiamo anche, per la lunga giornata, cioè per il contratto che possiamo studiare, dove è intervenuto, poi andando a vedere, in pratica si vede poco, ha cercato di omogenizzare, cioè lui dovendo intervenire dopo, anche se aveva uno stile appunto completamente diverso, cerca di adeguarsi e quindi si ridimensiona. Ecco come fa. E emerge molto poco. Se uno pensa al Filippino Lippi che si può vedere da altre parti a Firenze, caspita, cioè no. È quasi un tributo, ma esattamente. Sì, direi anch'io la stessa cosa, penso che si sia proprio sentito in dovere, penso anch'io. Bene, grazie. Grazie per voi. Sì, come no? Sì, certo. Sì. Dire quale deve essere il più scuro subito, allora, e cosa offrono più, diciamo, di tanti altri studenti. Ah beh, certo. Domandona questa. Tocca fare il mercante adesso, mi devo vendere bene. No, c'è qui in sala una persona che ha contribuito a questa cosa, che è mia sorella, è laggiù in fondo. L'idea di questa collana in fin di conti è un po' sua. Io avevo appena fatto il viaggio a Roma, una delle ultime tappe per Caravaggio, parlo del inizio 2016, e penso di averle rotto l'anima in treno per un tot parlando, come sto facendo ora, di quello che avevo visto a Roma di Caravaggio. E lei proprio mi ha detto: ma perché non scrivi un libro? Risposta contro lui: un libro su Caravaggio, cosa potrei dire su Caravaggio che non è stato ancora detto? Questa era proprio. E lei, giustamente, che si fa molto meno pippe di me ed è molto più piantata per terra, mi ha detto: ma perché tu ragioni già da studioso? Io che non conosco niente di Caravaggio, dopo che me l'hai raccontato il viaggio, mi verrebbe voglia di mettermi in viaggio. Ecco, allora, adesso me la tiro. La collana è stata recensita, il primo numero fu recensito da Tommaso Montanari su Venerdì di Repubblica, che disse: è un potente invito alla scoperta dell'arte. Questa definizione mi piace un sacco, non è mia, ma l'ha scritto Tommaso Montanari, ipsi. Cioè, credo che il valore aggiunto di un libro come questo è che io chiedo a chi legge di mettersi in viaggio e chiedo di andare nei luoghi dove sono stato. Le indicazioni nel libro di Daniela sono meravigliose, cioè lei quando arriva a Regello dice anche: fermatevi a parlare col parroco. Il parroco di Regello è una fonte di informazioni incredibili. Noi nella logistica curiamo sempre molto questo aspetto, ad esempio, cioè ogni sezione della guida chiude con logistica, quindi io ti dico come andare lì, con che mezzi, come ottimizzare i tempi, che cosa c'è lungo la strada, non ovviamente agriturismi, ristoranti, ma se per esempio ti trovi a Milano, ti stai spostando da Palazzo Reale verso la Pinacoteca di Brera, vabbè, c'è il Pol di Pezzoli che è una collezione pazzesca. Allora, dico fermati al museo Pol di Pezzoli così ti vedi anche un Mantegna. Ti ho appena detto che sicuramente Caravaggio si ispira anche in un certo modo al Lombardo Mantegna, vado a vedere. Cioè, questa è l'idea, è valorizzare quello che abbiamo in una monografia che è anche un viaggio, ma allo stesso tempo è una riscoperta del genius loci. Cioè, ogni luogo in Italia ha qualcosa da raccontare in questo senso, senza appesantire troppo con apparati critici, note, appendici. La guida è strutturata con una breve vita, schede di cultura che richiamano la vita quando uno vuole andarsi a approfondire un aspetto come le arti, i cittadini, eccetera, e poi la guida vera e propria. Alla fine mettiamo anche un glossario, senza dare nulla per scontato, almeno 40 voci che dicano, so che cos'è la pittura olio, che cos'è un'ancona di una pala, eccetera. Ecco che cos'è in più, secondo me. Senza rinunciare alla qualità, alla, come posso dire, alla precisione e alla storia dell'arte, diamo però un po' più di stimoli per il viaggio. Buona risposta.